E ce lo fate sentire in coro? Che dai. Famo all'arma. Rosso nero sono i colori. Oh, oh, oh, oh, che ti verrò fino a che morirò. Oh, oh, oh, oh. Forza di tezze non mollare mai. Oh, oh, oh, oh. A calcio moderno non ti piegherai. Oh, oh, oh, oh. Questo è il più facile però.